qualcosa da fare che manca. Il tempo è già finito, la gente che dice non ci sei riuscito. Volevo un po' di pace, dalle corse, dalle ansie, dai doveri e dai piaceri forzati. E allora in auto su per la statale, via dai mattoni e dal grigio cemento. Malumore, il giorno comincia, si aggiungono anche